qua. Dimentichiamo, giusto? Hola. Giustissimo, giustissimo, grazie di averlo detto. Hola. Se hola. A proposito di lockdown, di pandemia, ci colleghiamo con il nostro Marocchi, perché è in questo momento a Boe Ubraneo, là dove tutto partì, ricordatevi, ci fu il primo morto di Covid, ma lì c'è una notizia non bellissima. Però credete, hola. C'è un'altissima concentrazione di popolazione in hola. Del 18.550 hola. 1, 2, 3, prova. Hola. C'è qualcuno qua? Hola. Hola. Siamo ogni bene. Dopo. Adesso come stai? Adesso come stai? Hola. C'è qualcuno qua? Avanti, CQ10, c'è qualcuno qua? Andiamo bene, andiamo. Aspetta. C'è qualcuno qua? Hola, c'è qualcuno qua? Chi è avanti? Avanti, chi sta frusciando? Fischiano e non parlano. Abbiamo gli uccellini. Andiamo bene, andiamo. Grosso. Ti sciogli il metto. Non lo so. metti lì dove ti piace. È finito. Il Covid allerta per la variante Omicron su un volo Roma Alghero. Che? Che gli altri 130 sono stati messi in quarantena. Che miseria. Ehi, non si vaccini, no. Chi è che è? Benazzarino Alfa 1, senti due epidemie, chi è che è? Che positivo la Gamma Roger, mio fratello, che pecchia. Sempre di contro Gamma. Che pecchia. Sì, da oggi ne ha fatto di meno offerto, no? Riusciamo a vedere se migliora qualcosa. Speriamo di sì. Ha piovuto comunque, perché mi sono saliti un po' le stazioni, adesso stanno trascendendo. Qua sono le alternate, vedi? Adesso non io. E va giù il computer acceso. Non sono stati. Ma è un altro apparecchio. Ma che vuoi che ti dica? Io non me ne invento le cose, io se qua io che sentiva più basso non riusciva a percepire la cosa, la rumore là. Ricappa. Non vediamo questo. Adesso ti mando l'omologato, lui. E anche c'ho il mio omologato lo stesso. Guarda se lo vedi. E a me mi hai mandato lui tu. Che ragazzi. Ah, omologati è quello. Ehi, non è togo. A voglia. E adesso vediamo, mi sembra che mi impegno da gennaio, ho fatto studiare per la patente, ma non è che mi interessi giusto, sai, capisci a me, no, lettere le cose. Sì, ho capito. Ma se non fanno corsi, come fai a pigliartela questo cavolata? Studiare da solo è difficile. Io non mi ricordo più nulla. Ehi, sta lì. Se riuscito a pigliarmi la patente della macchina, che non è facile, Se riuscito a pigliarmi chissà. Però piano, fai che mi bucciò la prima volta, ma poi la seconda volta, Prima o poi la prenderò, no? Ma la patente della macchina mi è sempre mani promosso lui. La cosa più difficile è che è un bel ampio la situazione. Noi siamo lontani dai banchi di scuola, anni luce, non so se rendo l'idea, è difficile, non è facile, ci vuole qualcuno che ci spieghi la cosa, se no che ti impari a usare la calcolatrice scientifica. Perché devi fare dei calcoli con quella calcolatrice lì, se no non negare i piedi. Sì. Ma che vuole entrare avanti? Io sono Antonio. Ci sei? Non mi ascolti. No, non c'è radio. Sto no, c'è radio, vuoi fare qualcosa? Non si sente basso. Prova, 1, 2, 3, prova. Adesso meglio, prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Ma chi è? Avanti, buonasera. Buonasera a tutti e due, ignorantone, io Natalino. Ah, Vittorio, e beh, com'è? Natalino non mi ascolta forse. Ma Vittorio aumenta un po' la radio, sei basso. Io non so quanto è Natale, hai visto? 1, 2, 3, massimo forse. 1, 2, 3, prova. Adesso va meglio. Vabbè, io non lo sento a Vittorio forse. E adesso già l'ho sentito. Ciao Vittu, buonasera. Ciao. Buonasera anche a te, dai. No, sta facendo questo microfono, è un microfono, è il MBP5, però la batteria forse è bassa ed è per questo. Adesso già sta uscendo bene. Com'è la situazione di questi studi che volete esplorare per avere questo tesserino? È difficile, non è facile. 3 volte mi hanno bocciato a me. Va bene lì, Natale, il problema è che sì, avevi detto tu prima che bene, che sia una certa età, poi non ce n'è più voglia di studiare. Vabbè, ma la patente è difficile lo stesso oggi, eh. Prima quando ho preso la patente io nel 68 non era facile per allora, però dico, studiare per questa cosa qua è già un po' difficilina, e bisogna impegnarsi comunque. Anche se ti impegni, bisogna vedere che domanda ti capita, non è così, no? È difficile, io mi ho preso la D, addirittura io ho la D come patente, però la patente radiomateriale è difficile, non è così. Tutte le cose sono difficili, non è solo quello, è un casino, capito, è un casino, ma bisogna, se uno non prova, poi non è che stai spendendo chissà quanto, non stai spendendo quando uno va a scuola guida a prendersi una patente, capito, uno che non esannuta, sicuro sicuro lo bocciano, cioè sicuro sicuro lo bocciano, se uno studi, se uno studi ti bocciano. Ma è logico che ti bocciano, però se tu una prima volta vieni bocciato e una seconda poi stai attento, ma la terza, come si dice, tu tagli la testa all'asino, no? Ci sei? E io abito a rispondere al telefono della mia compagna, lo so, però provare non costa niente, dai. Un po' di sforzo, studi tutte le cose più importanti e lascia le cose più superflue, perché tanto loro vanno sulle cose più, sì, ti posso fare anche una domanda stupida, e quindi in generale bisogna avere proprio una bella confidenza col libro, io ce l'ho il libro, quello proprio professionale, ma non ci interessa, ormai io ho una certa età, non sono più ragazzino, se no poi a che cosa ti serve? Per fare una chiacchierata nella radio è bella, io sono sempre appassionato dagli anni 60 che modulo, ma questa grande passione per avere questo patentino per che cosa? Per parlare con chi? Vabbè, ma diciamo che puoi avere una radio in più senza problemi, capito? Hai visto, io ad esempio quanto tempo ero senza usarlo? 2 anni che non lo scendevo, forse l'anno scorso, non c'è più quella passione della moda, ora tu sei più giovane, voglio dire, non c'è tutta questa grande passione. Ho visto che certi radiomaturi si buttano sulla 27, diciamoci la verità, molti radiomaturi non hanno neanche certe dialettiche per poter parlare con altri che sono tanto esperti, molti si vantano eccetera eccetera, poi alla fine sono dei cipitù. È vero, è vero. Ciao. Ah vabbè, a me di questo non è che mi interessi più tu. Se loro stanno qua, se loro hanno la patente vanno dove vogliono, vanno. Il discorso mio è che magari uno può detenere più radio, ecco, diciamola tutta, perché se fai nel caso che ti viene un controllo, ti trova una radio che tu non puoi detenere, passi guai, invece a questo punto con un pezzo di carta in più la puoi detenere, tutto qua, poi se uno ne ha voglia si fa 2 chiacchiere, mica è solo qua in VHF, cioè, se lo possono fare anche fuori, adesso mi ricordo i 10 metri, 8 metri, se non mi ricordo come funziona. Buh. Ecco, allora è entrato Gianfra, a te Gianfra. Buonasera a tutti. Sì, io non ho capito, adesso c'è questa specie di corsa, secondo me insensata, alla patente. In ogni caso, che tu abbia la patente o no, quegli apparecchi qua non si possono usare semplicemente, perché se poi ti trovano anche peggio, perché dicono ma come, lei pure radioamatore e opera con queste radio su frequenza diventando automaticamente un abusivo, allora le ritiriamo anche la patente, siamo punto a capo, quindi non ho capito il senso, ecco, proprio di questa foga che c'è in giro, anche perché adesso ce la dobbiamo dire anche in maniera molto onesta, il traffico nelle bande, nella banda nostra amatoriale che su VHF, VHF è veramente basso, perché ci sono tutti ponti poco attivi rispetto al passato, quindi da una parte sono soldi sprecati, dall'altra parte sono anche fatica sprecata, poi se non c'è la passione è tutto un altro discorso. Sì, si conferma, lo so, non hai detto cose sbagliate, però sai com'è, se uno ha voglia di avere più radio in più, anche se qua non si possono usare, si devono usare le frequenze radio amatoriali, ok, ci sta, ma comunque sia, ti vengono controllo, ti vengono atterrare, ti vengono a parte, non ti fanno niente, tutto qua, sono collegate magari in altre frequenze, mica loro vengono perché tu stai usando un 4.40 o un 140 in 27, è quello. Ma volevo sapere una cosa, che fine ha fatto il link nazionale? Guarda, non ho controllato, quello sicuramente di Bade Urbana era un po' che era inattivo, quello che c'è a Coso a... Bah, non mi viene, all'altura, Villanova, Monteleone, a Villanova non lo so se l'hanno riattivato, ma probabilmente causa quel tempo, anche loro vanno in tilt, non è che sono cose eterne, ecco, si guardano anche loro. E poi niente, è così. Sono entrato un po' così a gamba tesa, quindi non so chi ci sia nella ruota, ecco. Se rilancio Vittorio, Volpe, e c'è anche Natalino. Avanti Vittorio. Ehi capo, no, abbiamo messo il parcheggio a Natalino, chiediamo scusa perché ho fatto entrare prima Gianfranco per i saluti, ma te è nata. Ciao Gianfranco, buonasera. Io ascolto di più di parlare, capito? Quindi a me non mi fa nessun difetto rimanere in parcheggio. Sì, Natali. Niente, comunque quello a volte si ha tanta cosa di... Perché tra l'altro di cibi radioamatori o ex cibi radioamatori ce ne sono tantissimi, vabbè siamo quasi tutti ex cibi, però nel senso che chi è diventato poi radioamatore, la maggioranza non è mai entrata, è entrata una volta, ha visto com'era le procedure, come erano le cose, e ha abbandonato tutto. Perché proprio era una cosa sballata, tutto lì. E poi niente, ripeto, sono tante spese a volte, ma spese grosse, se vuoi qualcosa in più, tutto lì. Vittorio, il mio vicino, era da molto che non ti sentivo. Tempo a disposizione è pochissimo, stavo facendo dei lavori a casa, avevo i moratori e quindi tempo a disposizione è proprio poco. Sempre impegnato, poi sono impegnato anche con la musica e non mi posso assentare, diciamo, occupo quasi tutto lo spazio per suonare, eccetera, eccetera, tutto qua. Ecco perché. E siamo un po' tutti così, un po' tutti incasinati. Adesso ho al telefono un collega, anche lui muratore in casa, stare attento alla moglie perché sta poco bene, insomma siamo un po' tutti con gli stessi problemi. Riprendi Natali. Infatti ha giocato la brada oggi, ho fatto via. Sono andato a pagarmi l'assicurazione della macchina, ho comprato un'altra stufa perché mia moglie voleva una stufa piccola. Dopo sono andato, ho preso il combustibile per le stufe e insomma, ha giocato Zurrada oggi. Almeno Tallini. Avanti Luca. Vabbè, comunque non costa niente provare, dai, poi se va e se non va non succede niente, mica ti arrestano, Tentare non nuoce, dai, giusto? Loro fanno una cosa così, per avere più, insomma, una piccola stazioncina, insomma, per essere più carina, dai, non sono un baracchinetto, visto che c'è la passione. E così se dopo diventi radioamatore non entri né là e né qua. Molta gente non entra più neanche al baracchino, sono d'altro. Capito? Okay. È quello che ti voleva dire Gianfranco. No, ma cosa c'entra? Perché Roberto non se l'ha preso la patente, eppure Seppure ha detto che quello qua non mollo, infatti si fa sentire spesso. Poi magari c'era un giorno che si fa qualche collegamento e se ne vuole stare per i fatti suoi, tutto qua. Ci sono state certe persone che hanno preso la patente, hanno visto il procedimento, come funziona di lì, e poi non sono entrate né là, hanno abbandonato tutto, sia qui che là. Capito cosa ti volevo dire io? Sì, sì, certo, ci mancherebbe. Già lo so cosa vuoi dire, ma io già entro qua. Forse ormai lì devi fare pratica, non è semplice. Non è così semplice, io ascolto, sono anni che ascolto, non sono due giorni, anni. Non è semplice. Niente è semplice, bisogna studiare, perché su molti QSO, se no ci si trova in difficoltà, perché di là discorsi come qua ce n'è raramente, capito? Qua possiamo parlare, siamo più liberi, tanto è vero che molti vengono anche qua a chiacchierare, non ci sono troppi legaccioli e norme, diciamo, di comportamento particolari, questo è libero oramai. Di là invece è molto rigorosa, ecco. Anzi, qua in Sardegna, ancora in continente, sono molto, molto pignoli. Sì, sì, infatti. Qua si fa, alla fine, lì devi essere più serio, no? Non devi fare cazzate, niente. Deve essere una cosa seria. Così. Sai come qua, sai, le battutine un po' così, spinte, ecco, dai, diciamo così. Cazzatine, dai, diciamo così, ma lì deve essere serio, seduto in poltrona, va bene, no. Comunque me la voglio tentare, perché tentare non nuoce. Vabbè, sicuramente, anzi sì, e vinca il più forte sempre. Riprendi Vittorio, visto che è freddo che c'è la mattina e che ghiacciata che ha fatto tanti ieri. Già l'ho visto, e adesso sempre qua, non mi muovo. Sto facendo, sto ripristinando i lavori dei difetti, dei muratori che mi hanno procurato un sacco di problemi. Via. Purtroppo il muratore sarà bravo per fare quel lavoro, però nelle finiture sono proprio cipito. Ah, no, te l'hanno detto che il muratore è una specie a parte, non appartiene alla razza dei lavoratori comuni. Uno quando è piccolo nasce muratore, quindi pensa, tu figurati che a me mi hanno fatto il rivestimento delle scale, e su tre scale si ferma l'acqua, sarebbe da buttare tutta a terra, rompendo anche marmi e rifarle da capo. Scusa se poco, già le avevo fatto rompere tutto un pianale in cemento armato, mi sono messo la mano in testa quando l'ho visto, anche Luigi lo voleva che era storto. E in più hanno sfasciato anche i marmi piazzandoli, quindi lo so bene cos'è, muratore, ripeto, è una cosa strana, di difficile descrizione, bisognerebbe guardare l'enciclopedia per vedere un po' che tipo di cervello l'hanno installato quando sono nati. Riprendi Natalia, sta facendo la stufa. Riprendi Luca. Chiappa. Vabbè, là. Vittù, allora, cosa mi dici? Ogni tanto ti fai sentire. Appunto, adesso è stata una serata che mi sono un po' assentato. Sto facendo delle volte così, ho finito e ho detto, beh, esci che accendo la radio, prendo questa ragionista. Infatti, hai visto cosa è successo? I microfoni, quando non li usi, devi fare regolazioni, potenziometri, si oscillano e devi fare degli accorgimenti, delle cose. Purtroppo questi apparati, quando poi da me qua in cantina, io sono in un seminterrato, la chiamo cantina ma seminterrato, non c'è tutto questo caldo, c'è un po' di fresco, umidità non ce n'è, però c'è fresco, e quindi gli apparati tendono a prendersi un po' di ossidazione. Ecco perché ho fatto quelle regolazioni che tu hai visto, e insomma sta andando un po' bene, dai, non so se ancora sta andando bene, ma perché vedo il LED del questo microfono, l'MBP5, e c'è il LED che vedo che già sta oscillando bene, per cui dovrebbe sentirsi bene. A te ancora. Io mi sposto un attimo la camera, dai. Mi metto una felpa addosso, la manica è corta, vabbè, questo non ce n'è, ce la sto facendo, riprendi già. Sì, visto, qua lo stesso c'è l'umidità, si vede anche fuori come il cambio di questo clima, perché molti PL sono corrosi, si attaccano, si saldano letteralmente alle antenne, alle apparecchi, quindi non puoi neanche smontarli, tocca tagliare tutto in maniera abbastanza brutta. Purtroppo è così, roba buona è sempre più difficile trovarne e quindi siamo messi così. Sì. Tieni presente che questo impianto ha 30 anni e l'antenna ha più di 40 anni, è sempre quella, ne sono cadute due radiali da una come si dice, un'invasione di cornacchie e hanno strappato proprio il radiale e ne sono caduti e c'ha due radiali adesso, che sono meno male in linea. Per carità, non sta più funzionando, me ne accorgo, l'antenna non ha più quella potenza, i radiali servono per la spinta, le verticale è per la ricezione, quindi se tu non pompi e non ti fai sentire è inutile che l'altro funziona bene. Infatti, vediamo se è rientrato Natalino. No, sta scendendo la stufa adesso. Ma allora la stufa a legna. È probabile. Comunque questo inverno mi sa che sarà un po' rigidino, non è da sottovalutare, visto che sta iniziando così. Infatti, è abbastanza brutta la cosa. Chissà, forse che magari a gennaio o febbraio torni l'estate, con quello che abbiamo visto, c'è da aspettarsi di tutto. Ma ti volevo dire già, se ti capita fermati me qua, non c'è problema, se mi vedi magari fuori lì con la macchina ti fermi e ci facciamo una chiacchieratina super veloce senza stare ore e ore. Se capita l'occasione, ma io ho orari strani, perché la mattina esco molto presto e poi rientro lo stesso a orari altrettanto strani, quindi insomma è tutto un po' confuso, dai. Io ho capito, un po' ingarbugliata la cosa. Sì, vabbè, se fai lavori così un po' straordinari, certo gli orari sono un po' impervi. Può capitare una domenica che stai passando lì per caso, mi vedi e non c'è problema. Sì, anche se non ti conosco, rischio di fermare qualche altro magari il tuo vicino, che forse, no, il tuo vicino, qual è il tuo vicino? È quello che c'ha la via, credo, che scende fin giù ed è confinante con me, il mio vicino praticamente, quello che se la prende sempre con i cani. Quello è, non ci abita più, quello era Dongo. Boh, non lo so, è un tipo anziano che fuma sempre, non so se sia sigaro e sigaretta, che lo vedo fermo alla fermata del tram. È quello che confina con me, che c'ha dei cani, c'ha anche, credo, una figlia, una moglie, perlomeno. Ed è, sembra burbero. No, non è burbero, quello o il suo cane è entrato da me e lui, per farlo uscire, perché non poteva uscire, ha rotto la mia rete vicino al cancello, l'ha strappata per far passare il cane, che il cane è entrato, non so come è entrato, e quindi passa tutte le mattine perché va a fare la Caritas. Lui era un idraulico, un vecchio idraulico, ha fallito, ha chiuso tutto, abita in quella palazzina che è lì, quindi già lo sai dove abita. La cosa è abbastanza grande, la casa è abbastanza grande, vedo, anche se un po' distante, dal mio confine. Il terreno che c'è davanti, dove si arriva da me, non ho mai visto nessuno quasi, perché non ci scende neanche lì forse. Adesso non lo so come confina questo uomo lì, ma credo che ci abbia una palazzina. Ripeto, era un ex idraulico, che poi adesso non credo fosse in pensione, boh. E comunque lui non credo che confini con a fianco a me. Lì vicino a te c'è un certo Puglione. Mario Puglione, lo conosci? No. Magari è quello di cui sto parlando io, forse, tu? No, quello che sto dicendo io, Mario Puglione, dovrebbe essere confinante con te proprio, attaccato a te. Perché sì, c'è qualche cane lupo, ecco. Guarda che faceva, lui lavorava alla petrolchimica prima, però faceva dei lavori per conto suo, o per quanto riguarda falegnameria e roba del genere. Non l'hai mai sentita una macchina da falegnameria? Non l'hai mai sentita? No, non ci ho mai fatto caso con tutte le moto zappe, moto coltivatori e trick e track che si sentono. Guarda, vedo anche poco i miei vicini, ti dirò, giusto d'estate quando si sta fuori, niente, è così. Conosco Fabrizio, conosco Marco, che sono i miei diretti vicini a destra e a sinistra, quello che ho di fronte, giù, non lo vedo quasi mai. E poi quello che c'è in fondo, che è cacciatore, cosa fa? Non mi viene adesso, vabbè, che c'è anche il negozio e basta. Ma Campo tu stai parlando? Non lo so, i cognomi, è anche troppo che mi ricordo il mio. Adesso mi hai fatto ridere, scusami. No, vabbè, lì i miei cognomi, io ci sono 40 anni qui, per forza li conosco tutti. Un giorno o l'altro, poi quando io ho fatto anche il presidente di questo consorzio tanti anni fa, e quindi li conosco per forza, sono dovuto andare casa per casa perché molti non si sono denunciati. Quando tu ti trasferisci dalla città, dal centro città fuori in periferia, nell'ufficio delle entrate devi denunciarti che stai facendo, perché ti devi pagare la tassa mondese, e quindi molti non facevano niente, rimanevano così. Quando abbiamo fatto una riunione a Canega, al posto comune, tutti erano un po' titubanti, gli altri signori, bene, la tassa mondese non la devo pagare soltanto io, la tassa mondese dobbiamo pagarla tutti quanti quelli che vediamo qua, e che cosa facciamo? Allora non le paga uno, no, e non mi sta bene questa storia qui, non è corretto. E allora tutti quanti hanno meno male accettato a fare questa cosa qua. Sì. La tassa mondese noi la paghiamo da quando siamo arrivati praticamente, perché poi era già tutto, come si dice, per quello che riguarda le tasse eccetera, ha fatto tutto il notaio d'ufficio che all'epoca si poteva fare. Quindi comunque su quello, purtroppo ti cercano anche, tutto lì, tanto è vero che vai qualcosa a ritirare i cosi, di come si chiamano, le buste, i contenitori, e così. Sì, ma insomma, vediamo perché è rientrato Luca. Luca, ci sei? Natalino, mi pare che si era sentato un attimo. A te, Luca? No, si sono messi a letto. Hanno fatto bene. Poveri noi. Domani di nuovo brutto. E quindi vediamo cosa succede. Ormai è il tempo suo, ancora l'inverno non è iniziato, che ci vuole una ventina di giorni, però intanto stiamo sopportando questo freddo che è un po' anticipato, secondo me. Tutto qua. A riguardo invece di quel discorso che stavamo facendo prima, per quanto riguarda le preoccupazioni, almeno adesso è un po' più pacifico, notato, tanti anni fa. fa, io mi ricordo che c'era un valeame pazzesco, tutti importanti, eccetera, molti anni fa, poi c'era anche qualche ragazzo malato che parlava ed è un disastro. Sì, sì, sì. Me li ricordo quegli anni, ogni tanto si parla anche di quello, dei tempi che furono. Beh, c'era anche dei personaggi un po' strani, è la verità. Io non ho figli, ma se l'avessi avuto, vabbè che ero piccolo, però in quella circostanza non so se l'avrei fatto stare al baracchino, ecco. Ma guarda, i più bei tempi, mi sto impicciottando, i più bei tempi della frequenza della modulazione erano, diciamo, agli inizi degli anni 70, 71, fino al 75, 76, poi si è un po' imbastardito perché ne sono entrati, c'era una marea di modulanti che era una cosa pazzesca, anche nei paesi a Ussi, Itri, dappertutto che modulavano. E c'era un baelame, come si diceva allora, infatti c'era tanta confusione, si metteva la portante, poi si è nuovamente ricalmata questa cosa e si è ripacificato, però dopo sono successi i telefonini che hanno un po' demolito tutte queste cose qua e quindi gli apparati sono stati chiusi. Sì, diciamo è calata perché anche le persone si sono stufate di avere liti con i condomini per i disturbi, per quello, per quell'altro. E quindi c'è stata questa specie di assenza collettiva, dai. E comunque adesso è più pacifico, non ne ho più sentito gente che mette portante e cose del genere, evidentemente c'è una certa maturità e quindi non succede più, ecco, non credo che succeda, poi c'è qualcuno che ogni tanto vuole fare lo spiritoso, purtroppo lo può fare, questa è la frequenza che ci permette di farlo, ci permette, chi permette di farlo? Oramai poi la 27 è libera, no? Non corre più autorizzazione, non si paga, quindi sono tutte quelle cose oramai sono solo un ricordo. Vediamo se è rientrato Luca. Luca, ci sei? No, per non sembrare che l'abbiamo lasciato in parcheggio. Natalie, niente, vogliono ascoltare Gianfra. Anche quello è un'arte. Beh, io sono un grande radioascoltatore, è dappertutto, anzi la mia attività principale è proprio radioascolto. Non in queste frequenze, ma in tutte quelle che mi appassionano. Qua giusto per fare una chiacchierata, ma poi quando sto parlando qua sto sempre facendo qualche cosa, ecco. Quindi non è che sono stanziale sulla 27, c'è un apparecchio che è sempre acceso di norma, però in realtà magari ce ne sono altri due, tre, interrottamente in funzione. Ma io ho capito, no, io già ne ho di radio, ma non ne uso sempre uno, ogni tanto ne accendo un altro che ha degli effetti, delle cose, ma non mi piace, a me piace quella voce. Ad esempio ci sono delle radio amatoriali che hanno una timbrica microfonica raucidinosa che a me non piace. Sì, è vero, è quella la radio vera, mi capisci quello che voglio dire, però a me non piace, a me piace una microfonia telefonica, come se stessi parlando proprio di fronte, senza alterazioni, senza questa timbrica microfonica raucidinosa, non mi piace, mi piace liscia. Ma anche lì è una questione di gusti. È una questione di gusti perché poi tutto cambia da apparato ad apparato. Quindi ci sono tantissime regolazioni. io ci sono tante sempre regolazioni, anche io ne ho di regolazioni qua da fare, ma non mi vanno, mi piace la timbrica proprio giusta, com'è, è riconoscibile poi, quando è molto rauca la modulazione, non riesce addirittura neanche a capirla molte volte, certe parole non si capiscono, non è meglio usare un microfono bello chiaro. Ma lì ci sono tanti fattori, tieni presente quello che noi operiamo. La nostra disgrazia è anche la M, che è molto diversa dalla modulazione FM, quindi c'è chi attacca quello, c'è chi tocca quell'altro, chi sposta quell'altro ancora, e quindi non c'è esattamente una costanza nella radio, nelle modulazioni. All'inizio, quando non c'era un codec voluto, figurati che nel bande alte del VHF, VHF, col digitale tutti dicevano è una voce robotica. Poi, man mano che si sono perfezionate, anche lì la radio è più che telefonica, e quando molli non senti niente, non senti QRM, no, tutto un altro pianeta. E così, dipende anche dagli apparati. Sì, questo sì, non c'è una risultata. Anche l'FM, se moduli bene, a parte quel fruscio che ha, perché purtroppo la ricezione non è perfetta, e neanche la trasmissione è perfetta, però anche l'FM è buona. Poi è chiaro che le bande laterali devi sempre... Però molte volte le bande laterali sono, se proprio centrata bene, è buonina, Sì, vabbè, io non so che tipo di apparato usi tu, però le bande laterali, se sono ascoltate con gli apparecchi, i ricevitori, diciamo di un medio livello, neanche di un grande livello, neanche, perché qua c'è una radiolina quasi giocattolo con l'antennina telescopica che va su tutta la HF, però che quando ascolta le modulazioni sono molto migliori di quelle che ascolti qua in 27, ecco. Quindi dipende da molti fattori. Magari l'ascolti in un'altra radio e ascolti male. Sì, è così, non siamo per di dubbio. È chiaro, ci sono apparati che hanno certe caratteristiche, è chiaro che sono migliori anche come componentistica. No, questo che sto usando adesso è abbastanza buonino, è molto vecchio purtroppo perché c'ha i suoi anni, però già sta andando bene. Però volevo sapere da te come timbrica, com'è, perché non mi sono mai, non è qualche volta mi sono risolto, adesso non mi ricordo più neanche come l'ho riascolto. Com'è questa radio che sto trasmettendo qua? Per me va bene, però tieni presente che noi siamo in linea d'aria a 500 metri, forse neanche, quindi disturbi non ce n'è, ecco, questo te lo posso dire, non ci sono rumori di sottofondo, quindi per me va anche bene. Ok, vediamo se qualcuno vuole entrare o se Natalino e Luca hanno finito. Sento dei rumori sul fondo, tu li senti? Sì, li sento. Non so se sia propagazione, qualche stazione lontana. Per un attimo mi è sembrata telegrafia, ma di qua non credo che ci sia a fare granché. Sì, sento un po' di graffiato. Vediamo un po' se la sento. Faccio un attimino, perché ce l'ha, credo, vediamo se ce l'ha. Non me ne ricordo, ho gli apparecchi, ma a volte non mi ricordo neanche. Guarda un po' se è telegrafia. Talmente bassa, talmente lontana, che qualunque cosa sia, è quasi indistinguibile. Si sente appena appena, però un po' di graffiato c'è, qualcosa sarà. Sanno i suoi russi che stanno giocando, quelli qua arrivano sempre, con pioggia, con suoni, con... sono sempre presenti. Becche? Avanti, buonasera. Ciao, buonasera a tutti, sono entrato così per salutarvi e sapere un pochettino come sto uscendo, Alfa 21 comunque, grazie. Sì, buonasera Alfa 21. Segnale, vediamo un po', dovrebbe essere un S7, per me la radio è abbastanza comprensibile, ti mando avanti l'altro collega, Vittorio, ti darà il controllo, avanti Vittorio. Buonasera, signor 21, sì, una radio che si ascolta non è super, però è buonina, dai, non c'è problema, il segnale è un po' basso, comunque, adesso non so da dove stai modulando, se mi ascolti anche, forse sì, non mi ascolta neanche, a te comunque se mi, se mi stai sentendo. Ok, no, vi ascolto bene tutti e due, arrivate a Santiago 8, scusa per il... Va bene, vi ringrazio, un saluto a tutti. Ok, buon proseguimento. A te. OK, Alfa 21. Alle prossime ICL. Riprendi Vittu, tra poco, ma mi sa che me ne vado a cena. Sì, anch'io, stavo per dirtelo, ma infatti. Dai, rimaniamo così. Vabbè, cosa mi è caduto? Dai, ce ne andiamo a fare un po' di carica adesso, ho avuto un richiamo poc'anzi e quindi è già tardi. Dai, buon proseguimento, alla prossima Gianfra. Tante cose belle, buona cenata e buona, buona carica, ciao. Ok Vito, e qualcuno a noi ci critica così presto, a quest'ora, all'ora delle galline, ma noi siamo in campagna, siamo gente che si sveglia presto, non siamo cittadini, capito? Ciao Vito, buona cena, alle prossime. Ciao Vittorio, sono rientrato Gianfra e adesso fra un po' me ne vado anch'io, già lo sai che io ceno presto. Ogni tanto ti collo con la radio, mamma mia. Va bene, ciao Natalia, sto andando anche a cena e anche Vittorio, ci sentiamo più tardi se viene bene. E guarda che non stavo tirando il collo a niente, io non ho toccato nulla, è che ero impegnato al telefono e praticamente ho abbassato il volume, solo ho alzato il volume per sentirvi. Sì, ma si sentono moltissimo sottofondi, io perlomeno li sento tanto tanto. Ok, va bene Natalia, scappo via. E ok, ciao anche a te Gianfra, ci sentiamo alle prossime. Adesso anch'io me ne vado a cena. Ciao, ciao. Ciao. Pronti? Chi è là? Chi ce l'ha?